Allora, questa non è una pubblicità elettorale, cosa del tutto rara in questi giorni dalle onde e dai microfoni di questa radio, anche perché devo dire che sicuramente se il signore in questione di cui sto per parlare si presentasse candidato da qualsiasi parte, non credo sicuramente che gli farei alcun tipo di campagna elettorale. Però per altre cose invece è un personaggio che va bene. Il nome di questo personaggio è Stephen King ed è uscito da un po', da un paio di settimane almeno, credo, forse di più, un suo libro curioso di cui il lettore italiano attento già aveva avuto un assaggio un paio d'anni fa e che oggi si trova invece in edizione integrale. Il titolo è Danse Macabre e non è un romanzo né una raccolta di racconti, ma è il punto per il momento definitivo su come la pensa il suddetto signore Stephen King, che è il re delle vendite del romanzo horror contemporaneo, appunto sui temi del genere che lui preferisce, che è appunto il romanzo horror, o meglio, come dice lui con grande precisione, fantasy horror. Dunque, questo libro, Danse Macabre, è, io vi dico subito la mia, come dire, sensazione, è un libro che per metà, per uno come me, è irritante, perché è un libro di saggistica, insomma, è un libro che ci racconta delle riflessioni di un personaggio, appunto come King, su questa cosa. Però è questa, come dire, saggistica americana fatta, americana non vuol dire che tutta la saggistica americana sia fatta così, anzi, ma fatta dal punto di vista di quello che non vuole fare saggistica, che non vuole fare l'accademico, anzi molto spesso ci sono delle terribili sparate, non dico che non se le meritino a volte, ma del tutto gratuite, secondo me, contro gli accademici, i critici di professione, eccetera, da parte di King. Quindi ci sono sempre questi ammiccamenti, strizzatine d'occhio, risatine ogni tanto, haha, eccetera, scritto proprio così, haha, AHH sul libro, insomma, quindi vabbè. Però, al di là di questo senso, che forse è un po' mio, così privato, idiosincratico, per dire una parolaccia, di irritazione per questi aspetti del libro, devo dire che è un libro molto interessante da leggere, soprattutto intanto perché getta luce su come la pensa Stephen King sul campo dell'horror. Insomma, devo dire che qui affronta sia l'horror letterario, cioè il romanzo e il racconto dell'orrore, sia il cinema, con una competenza e soprattutto con una memoria assolutamente terribile, insomma, perché lui si ricorda di certi film stranissimi, pazzi, che ha visto quando aveva 5, 6 anni, 7 anni, 8 anni. Il libro comincia proprio con la sua con appunto Stephen King bambino che sta in un cinema. A un certo punto non so se davano Assalto allo spazio o qualche cosa di questo tipo, o ma sì, uno, insomma, di questi film di horror fantascientifico degli anni appunto 50, fine anni 50, era il 57 l'anno, e a un certo punto il tipo del cinema interrompe la cosa e dice: vi devo dare una terribile, dice, notizia, i russi hanno lanciato uno Sputnik, un satellite artificiale. E da qui parte tutta questa lunga dissertazione che si snoda per oltre 400 pagine di Stephen King sull'orrore, cioè sul film e sul romanzo dell'orrore. Ci sono alcune cose che vale la pena, per così dire, insomma, notare, perché si capisce la concezione che ha, insomma, Stephen King di questa sua attività. Vi cito un pezzettino dall'inizio del libro. Il libro si chiama Danse Macabre perché lui sostiene che appunto l'orrore è una sorta di danza macabra, di ballo macabro con questa figura della morte, insomma, no? E dice, dice perché crei delle cose orribili quando c'è così tanto orrore vero nel mondo? Questa è una delle cose che spesso gli chiedono, e lui gli risponde: la risposta sembra essere nel fatto che noi costruiamo orrori per aiutarci a convivere con gli orrori del reale. In altre parti del libro, molto acutamente, King sostiene che il romanzo dell'orrore è generalmente espressione di una ideologia in fondo abbastanza conservatrice, per non dire forse anche, diciamo, reazionaria, termine che King non usa, ma insomma che al termine di questo romanzo dell'orrore, l'orrore è qualche cosa che scardina i nostri equilibri, le nostre aspettative di una vita, diciamo, normale. Lui spesso usa questa dicotomia, questa doppia, diciamo, categoria di mondo apollineo e mondo dionisiaco. Il mondo apollineo sarebbe il mondo ordinato, carino, tranquillo, e il dionisiaco, cioè quello che si riferisce a Dioniso, cioè al dio Bacco, sarebbe invece l'orrore, sarebbe appunto il disordine che entra in questo mondo. Insomma, è un libro che io tutto sommato vi consiglierei di leggere, appunto lo stesso editore che lo pubblica ora, Teoria, ne aveva già pubblicato alcuni estratti in una sua collana piccolina, la collana Riflessi, mi sembra 3-4 anni fa, ecco, oggi ce lo ripropone in veste integrale. Ripeto, vale la pena di leggerlo per chi è interessato a un minimo di riflessione su questo mondo della, appunto, letteratura e del cinema dell'orrore. È informatissimo, ha un sacco di cose, le pagine sono, compresi gli indici, oltre 440, 446 mi sembra, il prezzo è lire 38.000, insomma, che per una cosa così può anche andare bene. Il titolo, ve lo ripeto ancora una volta, è Dance Macabre, l'editore è Teoria, l'autore è l'immortale Stephen King.